621. Cialdoni. Ponete in un pentolo farina grammi 80, zucchero biondo grammi 30, lardo vergine e appena tiepido grammi 20, acqua ghiaccia 7 cucchiaiate. Sciogliete prima con l'acqua la farina e lo zucchero, poi aggiungete il lardo. Ponete sopra un fornello ardente il ferro da cialde e quando è ben caldo apritelo e versatevi sopra ogni volta mezza cucchiaiata della detta pastella. Stringete le due parti del ferro insieme, passatelo sul fuoco da una parte e dall'altra, levate le sbavature con un coltello ed apritelo quando conoscerete che la cialda ha preso il color nocciola. Allora distaccatela alquanto da una parte col coltello e subito, così calda, sopra il ferro medesimo o sopra un canovaccio disteso sul focolare, arrotolatela con un bocciuolo di canna o semplicemente con le mani. Quest'ultima operazione bisogna farla molto svelti, perché se la cialda si ghiaccia non potrete più avvolgerla su se stessa. Se le cialde restassero attaccate al ferro, ungetelo a quando col lardo, e se non venissero tutte unite, aggiungete un po' di farina. Sapete già che i cialdoni si possono servire soli, ma è meglio accompagnarli con la panna o con la crema montata ed anche col latte brûlé o col latte alla portoghese.